البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Ciao. Buongiorno Palestina. Oggi parleremo con Bassan Saleh, giornalista palestinese, coordinatore di organizzazioni palestinesi e italiane che da molti anni vive in Italia. A lui chiederemo innanzitutto le sue riflessioni sull'attualità del momento, la dichiarazione del governo israeliano Netanyahu-Gantz volto ad ottenere l'annessione della Valle del Giordano. Parleremo quindi di quali saranno le iniziative per contrastare questo ennesimo sopruso che elude il diritto internazionale e che toglie questa ricca regione agricola ai 65.000 palestinesi che ci vivono da più di 70 anni per consegnarla ai 10.000 coloni israeliani. Nel corso della trasmissione ascolterete brani tratti dal film Al-Fatah, girato in Palestina dopo la guerra del 67, dal regista italiano Luigi Perelli, film recentemente restaurato dal Centro di Documentazione Operaia di Roma. È un'inchiesta cinematografica sul principale protagonista della resistenza palestinese, il movimento di liberazione della Palestina, appunto Al-Fatah. Il documento mostra la vita nei campi profughi, illustra l'organizzazione politica della resistenza nelle sue articolazioni più importanti, quali i sindacati, la milizia popolare, la stampa, e informa sull'organizzazione civile, sugli ospedali e le scuole. Sul blog di Radio Wombat, sulla pagina di Buongiorno Palestina numero 44, troverete il link al film, disponibile in internet gratuitamente. Le notizie dalla Palestina della settimana. In evidenza è l'ennesima brutalità commessa dalla polizia di frontiera israeliana, che il 29 maggio ha ucciso Yad Hallak, un palestinese di 32 anni, di Gerusalemme Est, che era affetto da autismo. E il giovane era disarmato e ad un checkpoint è stato colpito a morte soltanto perché si era messo a correre quando i soldati gli hanno chiesto di fermarsi. E come ci racconta Chiara Cruciati su Nena News, il nuovo ministro della difesa israeliano, Benny Gantz, si è ufficialmente scusato con la famiglia per l'accaduto, dicendo che si è trattato di un errore eccezionale e che una inchiesta è in corso. In effetti due dei poliziotti sono stati fermati, ma il giorno successivo sono stati anche rilasciati. Molti commentatori fanno notare che non si tratta affatto di un caso isolato. L'associazione Bezalem, che è un'associazione di diritti umani israeliana, in un rapporto rivela che soltanto nel 2019 sono stati uccisi 133 palestinesi, di cui 28 minorenni, e nella maggior parte dei casi proprio in situazioni simili ai checkpoint, e questo a causa di una politica cosiddetta dell'open fire, che significa che i soldati sono autorizzati a sparare per uccidere di fronte a qualunque persona sia sospettata di avere intenzioni ostili. E questo avviene sostanzialmente nella totale impunità per gli autori di queste uccisioni. Su Haaretz, Gideon Levy ricorda tre episodi del tutto analoghi, soltanto avvenuti negli ultimi anni, che hanno avuto come vittime persone con disabilità mentale. E Gideon Levy fa anche un parallelo con la violenza razzista della polizia americana contro gli afroamericani, che è di attualità in questi giorni. Questo stesso paragone viene anche fatto da Nico Peled, che è un'altra importante voce critica in Israele, il quale ricorda le radici comuni della violenza della polizia americana e di quella israeliana, visto che ci sono collaborazioni fra Israele e Stati Uniti nel campo dell'addestramento delle forze di polizia. Fra gli episodi di ordinaria violenza dell'occupazione si registrano anche nuovi scontri nel paese di Kafr Kaddoum, che è un villaggio presso Nablus, dove ogni venerdì si svolgono manifestazioni di protesta contro la confisca di terre in favore degli insediamenti dell'esercito israeliano. Lo scorso venerdì i soldati hanno attaccato i manifestanti facendo 5 feriti, fra cui un fotoreporter palestinese, secondo quanto riportato da The Palestine Chronicle. L'associazione B'Tselem denuncia anche come l'esercito in questo caso abbia deliberatamente sparato anche sui serbatoi d'acqua sopra i tetti delle case del villaggio. Si tratta di una forma di punizione collettiva, perché in questo modo si privano gli abitanti dell'acqua, che è una risorsa particolarmente preziosa in questa zona e in particolare in questo periodo di pandemia. Passando alla politica, al centro del dibattito c'è sempre il piano di annessione del governo israeliano. Nell'ultima settimana, si sono alzate alcune voci preoccupate fra i politici europei. In Italia il 21 maggio 70 parlamentari hanno firmato una lettera al primo ministro Conte in cui si chiede un intervento per scongiurare questa mossa israeliana. E la stessa cosa è successa nel Regno Unito e in altri paesi europei. Il premier Conte, insieme ad altri 3 primi ministri europei, ovvero Johnson del Regno Unito, il premier Sanchez della Spagna e il presidente francese Macron, hanno simultaneamente mandato una lettera a Netanyahu per chiedere appunto di rinunciare al piano di annessione. Anche i membri europei del Consiglio di sicurezza dell'ONU hanno scritto una lettera congiunta in cui esprimono preoccupazione per il piano di annessione. In tutti i casi si tratta di lettere dal tono molto amichevole che ribadiscono i solidi legami dell'Unione Europea con Israele, e per il momento non minacciano alcuna risoluzione. Dal canto suo, Netanyahu non smorza i toni. I media israeliani riportano un suo discorso al suo partito, dove ha ribadito la volontà di portare avanti il piano di annessione e ha chiarito 2 cose. I dettagli del piano non sono ancora stati resi noti, ma ha chiarito che non sarà concessa la cittadinanza a nessun palestinese e che nei territori lasciati ai palestinesi, secondo il piano Trump, non nascerà uno Stato palestinese. Questo nonostante il piano Trump usi il termine Stato palestinese per designare quei territori, e questa è una cosa che preoccupa molto il movimento dei coloni e l'estrema destra israeliana. Netanyahu ha chiarito che non si tratterà di un vero e proprio Stato, ma di una enclave, l'ha chiamata così, che sarà comunque sottoposta ai controlli di sicurezza da parte dell'esercito israeliano. Quindi Michele Giorgio sul manifesto paragona questa situazione a quella dei Bantustan nel regime dell'apartheid del Sudafrica. Chiudere con una piccola nota di speranza, ricordiamo che nel corso della settimana ci sono state in Libano le celebrazioni per il 25 maggio, che per il Libano è un po' come il 25 aprile da noi, è il giorno della liberazione, e quest'anno ricorreva il ventennale della liberazione del sud del paese dopo 22 anni di occupazione israeliana. Su Infopal, un articolo curato dai giovani palestinesi in Italia ricorda come i gruppi di resistenza libanese, guidati da Hezbollah, ma c'erano anche altri gruppi, fra cui il Partito Comunista Libanese, riuscirono a costringere al ritiro l'esercito israeliano dopo una lotta molto lunga e dolorosa, durata appunto 22 anni, che comunque dimostrò che era possibile sconfiggere l'occupazione israeliana anche militarmente. E con questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Ascoltiamo ora un breve intervallo musicale con musiche dall'Intifada del 1989. الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي Allora, riprendiamo la trasmissione e oggi abbiamo in collegamento da Roma Bassan Saleh, giornalista palestinese che vive in Italia da molti anni ed è coordinatore di organizzazioni palestinesi e italiane impegnate per il raggiungimento di una pace giusta in Medio Oriente. Bassan, vorrei iniziare dalla notizia del momento che ci ha messo anche in allarme, e cioè la dichiarazione fatta dal governo Netanyahu-Gantz dell'annessione della Valle del Giordano e degli insediamenti illegali israeliani da attuarsi prossimamente in data 1 luglio. Cosa pensi di questa dichiarazione? Allora, prima di tutto bisogna pensare a una cosa sola. Noi siamo sotto occupazione. La Palestina è sotto occupazione da ben 72 anni. È l'ultima occupazione che è durata da 53, insomma 52 anni, che è iniziata nel 67. Quindi è un paese sotto occupazione, un popolo sotto occupazione che si chiama occupazione israeliana, sionista, imperialista. Questa bisogna essere, è la base di ogni discorso quando si parla della Palestina. Ora che Netanyahu si sveglia da un giorno all'altro e dice voglio annettere questo o quell'altro, non è la prima volta. Già fatto prima con Gerusalemme Menachem Begin nel 81, quando ha dichiarato Gerusalemme capitale unificata e eterna di Israele, violando tutti i diritti conosciuti nel mondo, dal diritto internazionale al diritto umanitario, al diritto storico palestinese su Gerusalemme, e mandando al diavolo tutto ciò che si chiama una possibile, se c'è la possibilità, io non ci credo, a una pace fra palestinesi e israeliani. Quindi Netanyahu, appoggiato adesso con tutta la estrema destra israeliana, questo va detto, perché la maggior parte dei partiti che hanno formato non questo governo ma anche quello prima, per ben 11 anni che sta al governo, ha governato sempre con i partiti religiosi di estrema destra israeliana. E non solo, ma appoggiati anche dai coloni che hanno fatto il loro consiglio delle varie colonie israeliane sul territorio occupato nel 67, cioè i territori che il mondo riconosce che sono territori occupati, secondo le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, e il mondo intero sa che questi territori sono stati occupati nel 67. E va detto anche che tutti i paesi che sono stati occupati, c'è un obbligo verso l'occupante che non deve fare nessun tipo di cambio né demografico né geografico né di popolazione, spostare una popolazione, neanche un se arresta qualcuno non può nemmeno trasferirlo nel paese occupante, ma deve rimanere nella sua terra. Israele di questo se n'è infischiata sempre, non ha mai rispettato neanche una risoluzione dell'ONU. Va ricordato anche in questo caso, nel 1947 la risoluzione dell'ONU per la spartizione della Palestina tra uno Stato ebraico e uno Stato palestinese, ci sono state due condizioni del riconoscimento di Israele come membro delle Nazioni Unite, che faccia tornare tutti i profughi alle loro case, alle loro proprietà, e il secondo è di rispettare l'armistizio, cioè quel confine disegnato dopo il 48. Queste due risoluzioni non sono state mai rispettate da Israele, cioè Israele non ha riconosciuto, non ha mai definito i suoi confini, se c'è un confine, perché secondo il nostro punto di vista i confini di Israele cominciano in Palestina ma finiranno in Iraq, in Siria e in Libano. Questo è il confine secondo l'ideologia sionista, che è la grande Israele. La grande Israele comprende parte di tutti questi territori, di questi paesi riconosciuti dall'ONU e come paesi sovrani, insomma. Israele mira a questo e sta riuscendo piano piano, insomma, non è che è una nuova. Ma perché? E perché ritorna anche dall'idea della nascita dello Stato di Israele, che non è nato nel 48. Ma è nato nel 1917. Dobbiamo tornare indietro nella storia. La dichiarazione di Balfour, il ministro delle colonie britanniche all'epoca, ha dato quella promessa di creare un homeland, un focolaio per gli ebrei in Palestina. Ma malgrado tutta la dannata dichiarazione, in quella dichiarazione c'è anche una cosa molto chiara, che lo Stato che deve nascere deve rispettare i nativi del paese. Neanche quello Stato è rispettato. Quindi non è la nascita di Israele come conseguenza della Seconda Guerra Mondiale e di quello che è successo, l'Olocausto, il nazismo, eccetera, eccetera, ma è un'idea imperialista dall'inizio, perché con la caduta dell'Impero Ottomano, le grandi potenze di allora, la Francia, la Gran Bretagna, hanno diviso il mondo secondo gli accordi di Sykes-Picot nel 1916, e poi sono passati già più di 100 anni, quindi il mondo va rifatto, va ricambiato, va rivisto secondo loro, o secondo quegli accordi, e ora ci siamo in questa fase. Il secondo Sykes-Picot, cioè dividere il mondo arabo, dividere tutta la regione, secondo l'interesse dell'imperialismo mondiale. E secondo l'idea dell'ideologia del sionismo è quello che noi combattiamo. Noi non è che stiamo a combattere gli ebrei, perché gli ebrei sono i nostri fratelli, abbiamo vissuto per secoli insieme, non è mai successo niente. Noi stiamo combattendo un'idea, un'ideologia razzista più fascista come il sionismo, che sta dominando non solo la Palestina, ma quasi in tutto il mondo tramite i mass media, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Netanyahu, se oggi dici io voglio annettere quel 30% del 20% del territorio palestinese occupato nel 67, cioè dalla Cisgiordania, non dice niente di nuovo, e questa è la loro ideologia, e loro continuano a farla. La nostra posizione è il rifiuto totale, perché questo non, è inammissibile, è una violazione del diritto internazionale, però Netanyahu è appoggiato da un altro cretino che sta alla Casa Bianca, che si chiama Donald Trump, che l'ha dato quel progetto grande per un Medio Oriente diverso, che l'ha dato la mano libera, perché gli israeliani non fanno niente senza il permesso degli americani. Questo va detto anche. Quindi il sostegno americano, che è rimasto isolato insieme alla posizione israeliana, trova anche non vogliamo dire una resistenza, ma un rifiuto molto sottile da parte degli europei, dell'Unione Europea, da parte degli arabi, da parte dei paesi islamici, da quasi tutto il mondo. Sono rimasti isolati solo loro. Ma non basta la condanna. Ah, io condanno Netanyahu, e allora che succede dopo? La condanna non basta, bisogna arrivare a fatti concreti. I fatti concreti sono ora nelle mani, prima di tutto, dei palestinesi. Dobbiamo unirci, dobbiamo finire questa divisione, e questo c'è un progetto che sta andando avanti. Non so se andrà o no, perché sono 12 anni che stiamo aspettando di finire questa divisione. Ma c'è un'altra cosa che noi dobbiamo proprio toglierci di dosso: tutti gli accordi di Oslo. Ecco, sì, infatti recentemente Abu Mazen, dell'Autorità Nazionale Palestinese, ha dichiarato la fine di tutti gli accordi e intese con i governi americano e israeliano, compreso il compito di tutelare la sicurezza in base agli accordi di Oslo. Non è certo la prima volta, e lo sai benissimo, che questo viene detto, ma in questo particolare frangente, cosa pensi appunto di questa presa di posizione dell'autorità nazionale palestinese e di Abu Mazen, quindi? Prima di tutto non è la decisione di Abu Mazen, questa è una decisione del Consiglio nazionale palestinese, cioè quello che rappresenta l'OLP, cioè l'unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. È una decisione che è stata presa 2 o 3 anni fa. È venuto il momento di attuarla. Quello che ha fatto Abu Mazen come presidente dell'OLP è dichiarare questa dichiarazione. E io, a dire la verità, come tanti avevo anche dei dubbi sulla possibilità di poterla attuare, ma in realtà quello che sento, quello che vedo, ascolto i miei compagni, i miei amici che stanno in Palestina e mi dicono che la cosa sta andando molto seriamente, anche nella news, il manifesto l'hanno, Michele Giorgio più di una volta ha anche accennato a questo. Perché? Perché non è rimasto più niente. Cioè, l'unica cosa da fare adesso è dire agli israeliani: abbiamo aspettato 25 anni a trattare. Le trattative hanno dimostrato al nostro popolo come al mondo che voi non volete la pace, perché non avete la minima idea cosa vuol dire la pace. Il momento che Israele o gli israeliani possono godere della pace, si metteranno a litigare fra di loro, perché loro devono trovare sempre un nemico, e il nemico è sempre sono i palestinesi, gli arabi, i libanesi, i siriani, gli iraniani. Riescono a unire la volontà degli israeliani su questo fatto, ma se il momento finisce questa guerra o finisce questo conflitto, gli israeliani fra gli Ashkenazi, fra il Haredim, fra i Sefardite, si metteranno a litigare fra di loro perché non c'è una coesione sociale all'interno dello Stato di Israele. È questo che dobbiamo conoscerlo, dobbiamo capirlo anche. Perché anche nel fatto di affrontare la questione del Covid-19, insomma, quelli religiosi con i capelli lunghi, tricciati, quelli che stavano sempre insieme, assembramento totale, e il governo non riusciva a fermarli. Come fai a fermarli domani quando vuoi dire uno Stato veramente laico, non è uno Stato religioso? E non è strano che Netanyahu, uno dei pochi governanti di Israele, è riuscito a far passare alla Knesset l'ebraicità dello Stato di Israele, è diventato uno Stato solo per gli ebrei. E ha un significato questo, cioè il 20% che non sono ebrei, che hanno la cittadinanza israeliana, ma non sono ebrei. Quindi la possibilità di cacciarli via domani è possibile, perché questo è uno Stato per noi ebrei. Tu non sei ebreo, te ne devi andare. Non hai più diritti come gli ebrei, non hai lo stesso trattamento da parte dello Stato, tra parentesi, o del governo, come tutti gli altri ebrei. Quindi sei un discriminato. È quello che soffrono i nostri fratelli arabi palestinesi che vivono in Israele, che hanno la cittadinanza israeliana, ma non la nazionalità israeliana, perché la nazionalità si dà solo agli ebrei, ma la cittadinanza si dà a quelli che abitano per il momento o sono residenti, poi se devono andare. Ok, facciamo uno stacco Diciamo, musicale e poi diciamo. riprendiamo di nuovo la conversazione con Bassan. Ascoltiamo ora la voce di Arafat sulla musica di Unadikum di Taufik Ziad. Per questo oggi preferiamo parlare poco. Siamo delusi delle parole. Adesso la parola è alle armi. Dispersi per 17 anni, cacciati dalla nostra terra. 17 anni di colonizzazione esercitata dagli invasori sionisti. Essi sono appoggiati dall'imperialismo guidato dagli Stati Uniti per consolidare l'aggressione contro il nostro popolo. Noi non combattiamo per amore del combattimento, ma perché siamo ormai convinti che questa sia l'unica via per recuperare i nostri diritti calpestati. Abbiamo dichiarato più volte che non siamo razzisti, ma fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Non siamo contro gli ebrei. Con loro abbiamo vissuto secoli e secoli. Siamo invece contro il sionismo. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. Siamo certi che saranno a fianco del nostro piccolo ma coraggioso popolo. Questo popolo che combatte questa battaglia e la combatte per il bene dell'umanità intera. Ciò rappresenta un anello della catena dei movimenti di liberazione internazionale che difendono la libertà dell'uomo dovunque. Così a Birmania, nel Vietnam, in Africa o in America. Da qui sorge la forza della rivoluzione. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Noi sappiamo che la strada è lunga, difficile e dura. Sappiamo anche che per arrivare al nostro obiettivo abbiamo di fronte una guerra a lunga scadenza. Ma siamo decisi a continuare nella rivoluzione fino alla vittoria. Allora, volevo domandarti una cosa, perché ho letto ultimamente di Gedeon Levy, giornalista israeliano da sempre amico dei palestinesi, che ha pubblicato su Haaretz un articolo sconcertante, invitando i palestinesi ad accettare l'annessione israeliana delle loro terre, visto questo come male minore. Tu cosa pensi che sia, una provocazione o che cosa? Beh, io l'ho risposto anche con un articolo mio e con un'intervista anche. È molto semplice, noi non accettiamo l'annessione, perché non è annessione della terra e delle persone, ma è un'annessione solo delle terre, metterle solo sotto la sovranità israeliana, ma senza mettere le persone, perché metterle sotto la sovranità israeliana o annettere tutta la Cisgiordania con tutto quello che c'è sopra, vuol dire che darà il diritto alla cittadinanza. E il diritto alla cittadinanza gli israeliani non daranno mai a un palestinese, perché vuol dire diritti, secondo quello che abbiamo dei diritti, finché non cambiano poi i significati. No, secondo me era un invito a, cioè io all'inizio, quando ho letto l'articolo, conoscendolo, rispettandolo, perché lo rispetto moltissimo, cioè leggo molto i suoi articoli e molte cose le ho condivise anche con lui, però c'è un momento in cui tu mi inviti alla rassegnazione. È un popolo che lotta da 100 anni, non può rassegnarsi per il semplice motivo che due stupidi come Netanyahu e Trump vogliono prendere un pezzo di terreno. Ma avete preso tutta la Palestina, cara mia, che vuoi? Cioè, non è possibile. Allora questo era più un invito alla rassegnazione più che un invito alla provocazione, insomma. Perché se mi provoca ti dico d'accordo, annetti tutto allora e diventiamo tutto un paese unico, quello che vogliamo. Annettimi, dammi anche la cittadinanza israeliana, o poi vediamo dopo il futuro come va, insomma. Se è un paese o uno stato, fra parentesi, democratico, facciamo elezione, ogni testa un voto, e vediamo chi vince. E questa che lui, le è sfuggito un fatto molto importante nella psicologia del palestinese, e degli arabi in generale, perché finché la questione va così, va bene, si può trattare, ma il momento in cui bisogna decidere, si decide. E quando abbiamo deciso di mettere fine agli accordi di Oslo, vuol dire siamo assolti di Oslo praticamente, perché non l'hanno rovinato loro per 25 anni, abbiamo perso un sacco di territorie, avete riempito la nostra terra con tanti coloni che vengono da tutte le parti del mondo, ora tocca dire fermi. Io non ti do, noi siamo sotto occupazione, prendete voi la responsabilità. Da quel giorno i servizi di sicurezza israeliani, che loro lo sanno perfettamente questo, cosa vuol dire togliere la collaborazione della sicurezza, vuol dire che domani tu, ogni cosa che succede in Cisgiordania, sono affari tuoi, tu sei il responsabile, non sono io. Io non ti do neanche una mano, i nostri soldati, cioè i nostri uomini della sicurezza hanno gli ordini tassativi. Io l'ho sentito da parecchi di loro, non possono andare in giro fuori con la divisa, non devono portare più pistole, non devono portare più nemmeno la carta d'identità che siamo della sicurezza, sono cittadini normali, quindi se ti fermano sopporta, nessuno ti verrà a cercare domani e dire questo della sicurezza fatelo uscire, se ti prendono gli israeliani. Quindi c'è un atto concreto che lo stanno a fare. E gli israeliani, questo, tutto l'apparato di sicurezza israeliano ha avvertito Netanyahu, stai attento di questa mossa perché può creare una rivolta popolare, cioè può arrivare anche alla disobbedienza civile. Quando succede un problema, prima c'erano le due sicurezze israeliane e palestinese, si risolvevano fra di loro, ora no, ora c'hai un problema con la sicurezza israeliana? Vai alla Croce Rossa Internazionale, loro fanno l'intermediario, non io. E quindi è un problema più per gli israeliani che per i palestinesi. Ha fatto benissimo la direzione palestinese a rompere tutti quegli accordi. Hai detto una cosa molto significativa prima, cioè hai detto una testa, un voto, tutti in un solo Stato. Ecco, mi chiedo quanto un obiettivo di questo genere è condiviso nel mondo palestinese e quanto può essere unificante di tutti quanti i palestinesi, sia di quelli che stanno all'interno dello Stato di Israele sia di quelli che stanno all'esterno. Guarda, questo è l'obiettivo nostro non da oggi, lo Stato democratico in tutta la Palestina storica è dal 68 che lo stiamo a dire. Poi quando siamo entrati nei processi internazionali per la pace, la conferenza di Ginevra, poi la conferenza di Madrid, eccetera, e siamo arrivati dopo, nel 76, mi sembra, 75, a un accordo di pace, un'autorità nazionale palestinese su qualsiasi palmo di terra che Israele si ritira. Già dal 74, il Consiglio nazionale palestinese al Cairo, con i punti 10 punti, si chiama il programma dei 10 punti, in cui si è aperto anche il dialogo fra i palestinesi e gli israeliani, che prima quando parlavi con qualche israeliano, da noi era vietato, dagli israeliani era vietato anche loro, ai membri del Knesset che parlavano con Arafat, era vietato. Quindi abbiamo aperto tutto questo, siamo arrivati alla fine agli accordi di Oslo che ci hanno portato al nulla che ci siamo. E questo è un problema per noi. Quindi i palestinesi, ma io penso che non c'è un palestinese che è contrario a questa idea, perché ci fa mettere tutti i palestinesi il diritto al ritorno, abbiamo 5 milioni di palestinesi fuori, hanno il diritto a tornare a casa loro secondo le risoluzioni dell'ONU? Sì, e devono tornare se vogliono, poi l'importante è che mi dai il diritto. Io vivo in Italia, sono 50 anni che sto qua, se mi dici vuoi tornare, ti dico no. Mi piace l'Italia, voglio stare in Italia, ma non mi togli il diritto di tornare a morire in Palestina l'ultimo giorno della mia vita, se voglio morire. Questo, cioè, fra il diritto e l'attuazione del diritto, basta un po' di... sono molte variazioni, insomma, perché uno può dire, vabbè, io sto bene dove sto, a 70 anni non è che posso ricominciare la mia vita di nuovo, ma un ragazzo, a mio figlio, se gli piace tornare a casa mia, che ce l'ho in Palestina, ne deve avere il diritto, perché... figlio di un palestinese vuole tornare a casa, che torna, perché lo deve proibire e dai il diritto al ritorno a uno che è nato, lui, i suoi nonni, i suoi antenati, in America o in Italia o in Germania o in qualsiasi altra parte, quello ha il diritto, io no. E questa è la discorso. Quindi per i palestinesi, secondo me, siamo tutti, ma penso che tutti i palestinesi, non escludo nessuno, anche i palestinesi del 48, non escludono questa idea di vivere in uno Stato democratico, tutti quanti, sulla Palestina mandataria. E questo è il destino di quel pezzo di terra, è di convivere insieme. Io non caccio via nessuno, ma voglio vivere con loro. Ma insieme però, decidiamo insieme il futuro di questo paese. E la parte dall'altra parte che mi rifiuta, a riconoscermi come esistente, come essere umano, perché io non esisto. Quindi loro fanno quello che vogliono. Bassano, volevo ritornare di nuovo, scusa, su Levi. Perché in questo articolo lui continuava scrivendo che secondo lui i palestinesi non sono mai stati così deboli, isolati e frammentati e privi di qualsiasi spirito battagliero. Condividi questa affermazione? Assolutamente no. Assolutamente no, perché lo vedo con ogni faccia, con gli occhi dei palestinesi. Si rilascia adesso che siamo un po' sciolti dagli accordi di Oslo, da tutti gli accordi con gli israeliani. Voglio vedere domani gli israeliani come affronteranno questi palestinesi. Noi non siamo un popolo nato ieri, noi siamo radicati in quella terra e la difendiamo, perché difendiamo il nostro diritto alla vita. E non è una vita qualsiasi. Non voglio fare la fine di quel ragazzo, Iyad, l'altro giorno, un disabile che viene sparato con 10 pallottole, perché il sospetto che lui poteva avere qualche arma in mano. Questo palestinese non lo accetteranno mai, mai. Mettetelo bene in testa, lo dico a tutto il mondo. 100 anni di lotta, abbiamo avuto alti e bassi, ma sempre dopo ogni caduta, come i cavalli, riusciamo a alzarci e camminare di nuovo. Siamo un popolo di 7 vite, siamo più di 7, più 14, 20, ogni giorno ce n'è una vita nuova. Noi siamo un popolo giovane, il 65% dei palestinesi al di sotto dei 25 anni. Immaginate che popolo è questo se vuole continuare a vivere sotto l'occupazione. Non lo regge nessuno e non è possibile quella fiamma che abbiamo dentro di lotta e di resistenza per vivere e sopravvivere come tutti gli altri popoli. Non ce la toglie né Netanyahu, né Trump, né Begin, prima né Sharon. Vi ricordate nell'82 quando Israele ha invaso il Libano, che qualcuno ha detto ciao PLO, addio Kissinger, o non so chi l'ha detto, Brzezinski mi sembra. Siamo rinati e rinasceremo ancora e rinasceremo ancora, come diceva il poeta nostro, finché c'è una donna palestinese che riesce a partorire un bambino palestinese, quello sa qual è la sua strada, la lotta per liberare la Palestina. Questa ce l'abbiamo nel DNA, non ce lo possono togliere. È un sogno, non ce lo possono togliere. I sogni sono liberi. Noi siamo dei sognatori. Vogliamo un paese come tutti gli altri, un paese libero, democratico, cittadini liberi che hanno il diritto come tutti gli altri a lavorare, a viaggiare, a vivere in modo uguale, con giustizia. Chi ti può togliere questo sogno? Nessuno. Nessuno. Condivido perfettamente le tue parole, però ci sono israeliani, amici dei palestinesi, che negano la vostra richiesta di avere uno Stato indipendente e sovrano. Perché secondo te? Nasce dalla stessa idea, anche se sono amici, perché ancora quando gli tocca il nervo vitale dello Stato di Israele, cioè il sionismo, malgrado che sono amici, ritornano in passo indietro perché hanno questo legamento con il sionismo. È l'unico modo, perché se tu ci credi che i palestinesi possono, perché non devo avere uno Stato? Ma io faccio la domanda a loro, perché no? E perché voi che siete ebrei, che venuti da tutto il mondo, siete una religione prima di tutto, non una nazione. È una religione. Le religioni, allora, se vogliamo dividere il mondo religioni, fra varie religioni, quante religioni ci stanno al mondo? 10, 20, 40? Non sono 200, 194, 195 che stanno all'ONU, riconosciuto come Stato nazionale? Compresa Israele. Ma perché a tutti sì, quando tocca a me no? Esattamente come quello che succede negli Stati Uniti, perché un poliziotto che mette il ginocchio sul collo di un uomo nero crea un casino che non finisce mai più, ma la stessa scena succede con i palestinesi tutti i giorni e nessuno protesta. Perché? Perché gli americani fanno vedere questo, ma anche noi lo facciamo vedere quello che fanno gli israeliani. Perché non c'è la stessa protesta mass media? La televisione italiana tutti i giorni la prima notizia, perché ha creato una rivolta? Allora domani sarà una rivolta in Palestina, perché un disabile non è il primo che viene assassinato in quella maniera. Ci sarà una rivolta prima o poi per dire basta a questo tipo di assassini. E questo è il discorso. Quindi perché mi deve rifiutare uno Stato? Tutti hanno avuto uno Stato. E noi siamo un popolo di 15 milioni di persone, non siamo un popolo di 2-3 milioni. 15 milioni di persone. Abbiamo il diritto, abbiamo la terra nostra che avete rubato, che l'avete condivisa a livello internazionale, perché è un problema, non è che l'ho divisa io la Palestina. L'ONU che ha deciso di dividere la Palestina in due stati, il mondo l'ha accettato. E quando noi l'abbiamo accettato, no, tu non puoi avere il tuo Stato. Ma con quale diritto? Il diritto internazionale, la risoluzione 181 del 47, ci dà più territori, ci dà il 48% della Palestina mandataria. Israele ha occupato molto di più nel 48, ma nessuno l'ha detto di tornare indietro. E sono diventati confini, non riconosciuti da Israele, ma sono confini. Perché quando tocca a me dire io voglio il mio Stato, mini Stato, perché non è lo Stato palestinese che noi abbiamo sognato e continueremo a sognarlo, su tutta la Palestina. Questa è una fase storica in cui il mondo, le forze in campo ci danno questo. Io lo prendo, ma nessuno mi toglie domani che io voglio tornare a Jaffa, a Haifa, a Acca, perché quello è il mio paese, quello sono, per me è la Palestina. Non è che finisce in Cisgiordania e Gaza, insomma. Ma quindi pensi che la soluzione dei due stati sia ancora credibile e possibile? È credibile se loro tolgono tutto quello che hanno creato in Cisgiordania e Gaza. È credibile, sì, e si permettono ai profughi palestinesi di ritornare a casa loro. Perché è già l'annosa questione dei profughi. Perché, sì. Perché sono due cose legate, uno Stato in Cisgiordania e Gaza e Gerusalemme Est capitale, insieme al diritto al ritorno. E non un diritto al ritorno parziale, come qualcuno cerca di dire, va bene, in Libano c'hanno una situazione peggiore fra tutti gli altri, facciamo tornare 100.000 palestinesi dal Libano nell'arco di 20 anni. No, non è così. Il diritto al ritorno comprende tutti i profughi palestinesi, compresi i loro eredi. I miei figli che non sono nati in Palestina devono avere il diritto al ritorno, come tutti i figli di palestinesi rifugiati. Non possono dire, cioè, ma ci sono profughi palestinesi in Cisgiordania, abbiamo 21 campi profughi. Questi non sono nati profughi in quella zona, sono nati nel nord della Palestina. Perché non possono tornare? Perché? E casa loro sta lì. Non perché io non li voglio, ma voglio che loro abbiano i loro diritti. I diritti non si discutono. I diritti sono diritti. Come dire, il diritto alla vita, se vuoi discutere se vuoi vivere o non vivere, questo è una decisione personale, ma non di un popolo. Se io voglio ammazzarmi adesso, mi ammazzo. Ma non posso ammazzare un popolo con me. Ma è il diritto mio di vivere. Allora lasciatemi vivere nel mio paese, dove sono nato. Senti, te vivi da anni in Italia, a Roma, e quindi sarai aggiornato sul fatto e saprai che Pino Cabras è il promotore, no? È stato il promotore insieme a 70 deputati e deputate dell'appello al governo italiano per chiedere non soltanto di condannare in modo esplicito l'annessione prospettata dal governo israeliano, ma anche di adoperarsi attivamente in tutte le sedi europee e internazionali per scongiurare la realizzazione, le cui conseguenze sono definite devastanti per l'intera regione. Ecco, pensi che questa richiesta possa veramente incidere sulla posizione del governo italiano, sul governo Conte, sulla programmata annessione? Ma io fino adesso, almeno quello che si è dichiarato dal parte del governo italiano al Ministero degli Esteri, hanno fatto delle buone dichiarazioni, sia Di Maio sia la Sereni, mi sembra, hanno fatto delle buone dichiarazioni che questo è contro la legge internazionale. Questo è vero. Ma finché l'Italia e l'Europa, perché è inutile continuare a dire che l'Europa farà chissà cosa, l'Europa rimarrà sempre in questa posizione, né sì né no, condanniamo ma non facciamo, no, bisogna prendere azione, quello che dicevo all'inizio, se non prendiamo azione, minacciando a livello di parole almeno, ci sono molti accordi fra l'Europa, fra l'Italia, fra vari paesi europei e lo Stato di Israele, ma minacciare, guardate, se fate questo, noi congeliamo almeno questi accordi per un momento. Se arriviamo a questo vuol dire, forse dico, non sono sicuro, che Israele possa cominciare a ripensare che quello che sta facendo è una cosa dannosa, sia per loro, sia per noi, sia per tutta la regione. Perché io non so se con l'annessione della Valle del Giordano, la Giordania, che farà la Giordania? Che c'ha un accordo di pace, il re Abdallah ha minacciato più di una volta di fare anche un'azione molto diretta contro Israele, l'Egitto. Ci sono posizioni, insomma, posizioni, perché non è una questione che riguarda solo i palestinesi, ma riguarda anche gli arabi, perché c'è qualcuno nel mondo arabo che sta cercando di attivare tutti gli accordi fra i paesi arabi tramite la Lega Araba e riprendere di nuovo il boicottaggio. Noi avevamo un ufficio della Lega Araba, si chiama Boicottaggio di Israele, insomma, è stato sciolto quando abbiamo firmato noi palestinesi la pace con Israele. Ecco, io credo che questo sia il punto un po' conclusivo, cioè siamo in un momento in cui ci sono delle proteste a livello parlamentare, sia a livello nazionale italiano, sia a livello europeo, in cui Borrell, che è il ministro degli esteri europeo, si è pronunciato anche contro questa annessione. Si tratta di vedere quali sono gli strumenti per sostenere queste prese di posizioni che mai come in questo momento sono state così unanimi. Ne possiamo parlare dopo l'ultimo intervallo musicale? Va bene. Ascoltiamo un brano dal film Al-Fatah sulla musica di Dayarna, di Charbel Ruana, dell'Orchestra Orientale Libanese. Nella Valle del Giordano vi è una frontiera fittizia che nessuno accetta più. Questo è il nuovo ponte di Allenby, a pochi metri dagli avamposti israeliani della Giordania occupata. Sul ponte transitano gruppi di armi. Vanno e vengono su quest'unico punto di passaggio tra due territori che sono entrambi loro, abitati da una stessa gente. E il ponte è come un punto di contatto ideale tra due resistenze, quella che si organizza nei territori occupati e quella dei campi profughi. Mi auguro che le case di Lincoln siano colpite come le case degli inermi in Giordania, Palestina e Al Cairo. Appoggiamo i Fidayim dovunque essi siano. Vuoi rimanere in questa casa? Io ero in questa casa e vi rimarrò. Recupereremo la Palestina, una terra più cara dei nostri figli e della nostra vita. Palestina, Gerusalemme, torneremo a qualsiasi condizione. Appoggiamo i nostri fratelli Fidayim. Le nostre risorse sono a loro disposizione. Allora, riprendiamo per chi si fosse messo in ascolto adesso, stiamo facendo la 44esima puntata di Buongiorno Palestina. Quindi Bassan, visto che contro l'ultima iniziativa, quella dell'annessione, si sono pronunciate criticamente il segretario generale dell'ONU Guterres, l'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell, la Lega Araba e la società civile palestinese con il seguito di 70 sigle di associazione, ha chiesto a tutti gli stati l'adozione di misure efficaci per fermare l'annessione illegale dei territori occupati e le gravi violazioni dei diritti umani da parte di Israele. Ecco, cosa pensi che possiamo fare come azione di base per il popolo palestinese? Cioè una giornata di mobilitazione internazionale contro l'annessione o che cos'altro? Beh, io prima di tutto saluto tutte le posizioni europee, italiane, in modo particolare i 70 parlamentari italiani che hanno preso questa posizione critica e dura critica anche contro la decisione di Netanyahu di annettere il Valle della Giordania, il Valle della Giordania. Questo a livello istituzionale deve concludersi in una cosa, insomma, chi conosce questi parlamentari, ma perché non si crea un comitato parlamentare di solidarietà col popolo palestinese, che c'era una volta? Anni fa, indietro, io so, 50 anni che sto qua, quindi mi ricordo ancora c'erano comunisti, democristiani, socialisti, perfino liberali e socialdemocratici. Erano dentro lo stesso comitato, perché è una questione internazionale che riusciva a unire anche le varie posizioni, i vari partiti italiani. Purtroppo quei partiti sono spariti e quello che c'è adesso devono cercare a trovare un modo di creare una struttura, una forma di come dire, un comitato di solidarietà, un comitato parlamentare italo-palestinese, perché abbiamo anche noi i nostri parlamentari, si può fare una cosa del genere e sarà un sostegno loro, magari riescono anche a allargare l'orizzonte di altri parlamentari, altri senatori, e questo sarebbe un bel gesto da parte loro. E bisogna che noi respingiamo su questo, insomma, ognuno che conosce un parlamentare che lo chiama, perché non fate una cosa del genere, che sia una cosa pubblica, conosciuta, è già un segno. Dall'altra parte questo deve sbucciare un'altra cosa più importante, secondo me. Devono fare pressione sul governo per prendere una decisione al riconoscimento dello Stato di Palestina. Se arriviamo a questo, anche da parte, perché l'Europa alla fine insieme non prenderanno mai una decisione del genere, ma a livello di ogni paese dovrebbe nascere qualche idea nuova da qualche paese, e l'Italia penso potrebbe farlo o dovrebbe farlo se le forze permettono anche ai nostri deputati di fare questa pressione. A livello di base cosa possiamo fare? Prima di tutto informarsi esattamente di quello che succede. A me piace molto l'associazione Italia-Palestina, perché tutti i giorni ci passo, vedo tutto quello che viene pubblicato, minuto per minuto, quasi un diario della storia palestinese contemporanea, insomma, tutto quello che succede lo trovi là dentro, ed è questa una cosa molto ammirevole e informativa anche. Possiamo fare un'altra cosa, per esempio noi, a livello di boicottaggio, il BDS, attuazione del BDS, cominciamo a utilizzarlo anche a livello individuale e diffonderlo affinché non diventa una cosa proprio istituzionalizzata, insomma, che io questo prodotto non lo compro perché è così, questo non lo compro perché è di là, e non dico solo per i prodotti, ma dico anche a livello culturale, a livello universitario, a livello di cooperazione, a tutti i livelli. Questi bisogna spingere anche dal basso, dentro l'università, dentro il centro di ricerca. Ovunque sappiamo che stanno collaborando con Israele, dobbiamo andare a rompere le scatole, scusate il termine, non so se si può dirlo in radio o meno, ma io non trovo un'altra parola. Dobbiamo rompere tutte queste dogme che ci hanno messo, Israele non si tocca, ma perché non lo posso toccare se sta sbagliando? Gli Stati Uniti, molto amico dell'Italia, quando ammazzano qualcuno facciamo un bel casino, ma noi quando ammazzano un palestinese non facciamo niente. Perché? Perché i mass media ce l'hanno loro, nelle mani loro, nelle mani dei sionisti praticamente, la maggioranza almeno, non escludo quasi nessuno, ce l'hanno il controllo totale su tutto i mass media, ma non solo in Italia, ma nel mondo. Quindi loro decidono quale informazione dobbiamo saperla noi da cittadini mortali di questo mondo. Io voglio sapere tutto, mi deve dare informazione giusta e corretta, non come ha fatto la RAI l'altro giorno, ha fatto bocciare una ragazza che diceva che Gerusalemme non è, che Tel Aviv è la capitale di Israele, e questa la boccia la fa, non la fa vincere. Noi abbiamo creato, abbiamo fatto pressione e ci è arrivata una lettera, cioè, come dire, non è una, neanche chiedere scusa che hanno sbagliato, perché la storia è quella, sono il diritto internazionale è questo al di sopra di tutte le enciclopedie del mondo, perché quello è il diritto. E dice Gerusalemme ha uno stato particolare, né qua né là, né palestinese né israeliana, ma sotto un controllo mondiale. Come fai a dire che è capitale di Israele? Anche questo tipo di informazione, disinformazione che fa la RAI o fanno altri di Mediaset o altre, bisogna martellarle tutti i giorni. Hai sbagliato, perché non è così. Essere presenti, perché loro chiamano, ogni giorno c'è un scrittore israeliano, un poeta israeliano, un politico israeliano. I palestinesi non esistono. Non riescono mai a chiamare un palestinese e dirlo vieni qua a parlare. Ma vogliamo sentire l'altra parte, il bar condicio è questo anche, si parla di Palestina, Israele deve chiamare un palestinese. Loro questo se lo sono scordati completamente, fanno l'idea come vogliono loro e trasmettono quello che vogliono loro. E questo è anche un compito nostro, alzare il telefono la mattina quando senti un programma e senti non è così, e dobbiamo diffondere questo, che sia una cosa collettiva, non solo di una persona o due. Questa è una delle cose, di tante cose possiamo fare. Prepariamo una delegazione al Parlamento europeo, andiamo a Bruxelles a protestare, andiamo con 2-3 pullman dall'Italia come da altri paesi europei, possiamo farlo una cosa europea, chiamando anche i palestinesi ad andare tutti insieme il giorno tale, andiamo lì a protestare, protestiamo davanti al nostro Parlamento in Italia, qui a Roma, protestiamo davanti ai consigli comunali o regionali che non prendono posizione, perché il basso per arrivare al governo. Il Comune di Firenze l'altro giorno ha fatto una bella delibera molto forte anche, chiedendo il riconoscimento dello Stato di Palestina. Cioè, ci sono delle cose che si possono fare, se tutti i comuni lo fanno, tutte le regioni prendono una posizione del genere, penso che qualche cosa riusciamo a incidere al governo per prendere una decisione più saggia, più conveniente anche. Noi siamo un paese mediterraneo, i nostri interessi stanno nel Mediterraneo, non stanno in America o non stanno non so dove. Stanno qua nel Mediterraneo, che è stato sempre un mare di cooperazione, di amicizia e di solidarietà fra i popoli. Perché dobbiamo farlo diventare un mare di guerra? Questi sono gli argomenti che possiamo fare tutti i giorni, possiamo manifestare, non lasciare una ricorrenza palestinese passare così. Facciamo una manifestazione, facciamo un sit-in, facciamo tutto, serve, perché è un accumulo di iniziative che ti fa arrivare a un risultato. Una mano da sola non può applaudire, bisogna che applaudiscono in tante, tante mani che applaudiscono per arrivare a un risultato veramente serio e può incidere nella politica a livello nazionale e europeo. E su quel fatto di cui parlavi prima della trasmissione di Rai 1, avete fatto una mobilitazione a Roma, siete andati alla Rai? Non hanno voluto ricevere una delegazione nostra, semplicemente. Ah! E loro, la cosa più strana alla RAI, insomma, io ti ho scritto come cittadino italiano, tu non puoi dirmi, mandarmi una lettera che ho risposto all'ambasciata palestinese, con tutto il rispetto all'ambasciata, ma mi deve rispondere a me da cittadino. La risposta che è arrivata all'ambasciata, per fortuna noi siamo riusciti ad avere una copia e divulgarla anche, però se l'ambasciata chiudeva la cassetta e dice no, qui non è arrivato niente o non vi voglio far vedere, a me come cittadino non ho mai risposto, è mio diritto avere una risposta quando ti faccio la critica. Tu non hai mai risposto, quindi abbiamo fatto una seconda lettera e la stiamo mandando un'altra volta, perché non è possibile che la RAI faccia quello che vuole senza avere una protesta palestinese e degli amici della Palestina, naturalmente. Certo. No, la risposta poi dicendo che si era occupata di andare a guardare le fonti autorevoli accreditate a livello internazionale per quel disguido della capitale, no? Uno si domanda quali sono queste fonti autorevoli, quelle asservite alla politica israeliana, molto probabilmente. Ma io guardo la fonte principale è il diritto internazionale, che è rappresentato dall'ONU e dal Consiglio di Sicurezza. Tutti e due dicono che Gerusalemme è uno stato particolare, sotto controllo internazionale, non è controllo né israeliano né palestinese. Allora, se è così, dividiamola. Scusa, io avevo la mia parte est, perché l'hai presa? Perché l'Italia stessa, l'Italia, non riconosce Gerusalemme come capitale di Israele. Cioè, questa è una fonte del diritto, fonte di, ufficiale italiano. Non abbiamo, l'Italia non ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, al punto che la nostra ambasciata è ancora stata la VIP, come la maggior parte delle ambasciate. Quindi, come fa uno della RAI a fare una disinformazione del genere? Guarda, da vergognarsi veramente. Sì. Io al posto di quella ragazza farei una causa contro la RAI, perché ha vinto, non ha perso lei. È vero. Faccio una causa, non so da quale paese è, ma se mi ascolta, che comincia a fare una causa, la appoggiamo tutti. Sicuramente possiamo approfittare di questa sua causa per aggiungerci anche quella della Palestina e del calpestamento del diritto internazionale da parte di Israele. Senti, io volevo fare due domande sociali, diciamo, dal momento che nei nostri paesi le moschee, il discorso era quello delle moschee, considerate covi di militanti dell'ISIS, ci sia la religione islamica. Anche questo, diciamo, è una componente che non aiuta ad avere, diciamo, un apporto da parte dei paesi occidentali nei confronti della questione della Palestina. E la domanda era anche quella, appunto, che cosa ne pensi di questa cosa, perché, appunto, per esempio anche a Firenze non sono anni, è stato fatto anche un progetto anni fa, è stato, la regione ha speso più di 70.000-80.000 euro, ha fatto delle inchieste, dei sondaggi, e poi invece non è venuto fuori niente. E che cosa ne pensi anche dell'ISIS, e che cos'è secondo te poi questo ISIS? Allora, cominciamo con la cosa più semplice, insomma. Io sono ateo, quindi e laico, anche siccome anche l'Italia è un paese che separa la religione dallo Stato, ed è giusto che se c'è una comunità che vuole praticare il suo culto, giustamente lo deve fare, bisogna dare tutti i permessi e l'autorizzazione necessaria perché lo faccia. Ma che le moschee siano cove di terroristi, io non saprei, perché questo è un compito della sicurezza italiana, curare questo e vietarlo che succeda. Ma anche io non penso, la maggioranza dei musulmani che stanno qui in Italia, ma pochi casi sono stati denunciati di terrorismo, roba del genere, ma la maggioranza sono gente pacifica che vive in Italia da tanti anni, hanno la voglia di praticare la loro religione, lasciamoli fare, perché inutile. A Roma c'è la più grande moschea che abbiamo, sono più di una moschea e tutti sono legali e lavorano, c'è una bellissima moschea anche a livello architettonico, insomma, molto bella quella di Roma, la grande moschea. Perché non può succedere? Non abbiamo sentito nessuno che incita alla violenza o all'odio razziale o all'odio religioso, anzi, io non pratico, però almeno i miei amici che vanno là tornano tutti contenti, sono tutti come me, laici, insomma, accettano tutto. Quindi su questo io penso che è sbagliato non farli praticare le loro religioni, il loro culto, secondo il rispetto del paese in cui vivi, non è che pretendono più di tanto. Sull'ISIS, è scritto anche nella Costituzione, tra l'altro. Esatto, quindi inutile che certi gruppi tipo Salvini e la Lega che fanno queste accuse infondate, perché fino adesso non è dimostrato nulla di questo, vietano a un cittadino di praticare la sua religione, ma ci sono anche cittadini italiani di religione islamica, musulmana, insomma. Quindi io faccio una differenza fra l'Islam come religione e l'Islam politico. Cioè, sono due cose separate. Io parlo della religione in quanto religione, non l'utilizzo della religione a livello politico. E quello che abbiamo subito, dopo vengo alla seconda domanda, dell'ISIS. L'ISIS non è altro che Al-Qaeda, la vecchia Al-Qaeda di Bin Laden. Ma vi ricordate chi l'ha creata, come è stata creata? Al-Qaeda è nata dall'Arabia Saudita, con l'appoggio, il sostegno e l'addestramento americano per combattere l'Unione Sovietica in Afghanistan. Questa era Al-Qaeda, poi si è trasformata nel movimento talebano, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'ISIS, lo Stato Islamico. E anche questo con il sostegno degli americani e di tanti paesi occidentali. E lo sottolineo, perché gli studi, le ricerche che sono state fatte sull'ISIS dimostrano che sono, la maggioranza di loro erano ex prigionieri, quello che si chiama il califa o il, non so come li chiamano, sono tutti ex agenti della CIA e del Mossad israeliano. Allora, questi che servizio hanno fatto a favore dell'Islam? Io non credo, perché l'Islam è una religione come tutte le religioni che invita alla tolleranza, all'amore, alla vita. Non ho mai visto un musulmano sgozzare la vita di un altro, sgozzandolo proprio come un animale. Ma non, nell'Islam, cioè io ho letto l'Islam da laico, da ateo, anzi, per capire. Non c'è questo invito. Quindi quello che ha fatto quello non fa niente a favore dell'Islam, anzi, danneggia l'Islam e crea questi casi, questi tipo Salvini che comincia a dire ecco, l'ISIS ce l'abbiamo in casa. No, quello non è l'Islam. Quello l'ISIS è un'organizzazione terroristica, va combattuta in tutti i posti. Guarda quello che hanno fatto in Iraq, in Siria. Perché non vanno per esempio negli altri paesi? Sono andati nei paesi dove c'era il più paese laico, insomma, la Siria è un paese laico, l'Iraq. Perché vanno sempre in questi paesi? Perché non vanno a combattere contro l'Arabia Saudita, che è il covo dell'Islam corrotto secondo le loro, la loro opinione, insomma, secondo l'ISIS? Perché? Perché non vanno in città, la Palestina, non hanno mai nominato la Palestina. E vogliono distruggere Israele, ma non abbiamo mai visto sparare un colpo contro Israele, anzi, tanti di loro che sono stati feriti in Siria sono stati curati in Israele. Guarda caso. A caso questo, io non credo che tutto per caso, non c'è niente per caso nella politica, no. È tutto programmato così, perché all'epoca quando c'era Obama fece quel discorso all'Università del Cairo, dando l'apertura proprio all'Islam politico che può governare. Cioè non l'Islam politico qualsiasi, ma l'Islam politico dei Fratelli Musulmani, che è un'organizzazione nata negli anni 20 con 500 sterline britannici pagati per il fondatore, che è diventata un'organizzazione mondiale, è rimasta zitta, ha fatto colpi di Stato, ha approvato contro Nasser, ha assassinato Sadat, ha fatto tutto nel mondo arabo, ha fatto di tutto, meno che sono andato a combattere in Afghanistan contro i russi, ma non sono andato a combattere in Palestina contro gli israeliani. C'è un'idea indietro, non è che nasce per niente, c'è un'idea precisa. Quando Obama ha dato quel permesso abbiamo visto la primavera araba, che ha causato più danno che di quello che era prima. In Egitto hanno governato 2 anni, stavano cercando di distruggere il paese con l'Islam politico, come lo capiscono loro. In Palestina abbiamo una frazione di questi, Hamas. Bisogna capire anche le origini di ognuno di loro. Guardate il Qatar, quello che sta facendo in Siria, in Libia, in Egitto, in Palestina. Che cos'è il Qatar? Un piccolo paese neanche di 500.000 di persone, però seduto su un giacimento di petrolio, vende. C'ha la più grande base militare americana, che controlla tutto il Golfo. In funzione a chi? Dell'Iran? Ma l'Iran con voi? Quanti anni che stiamo sentendo Israele vuole distruggere l'Iran o l'Iran vuole distruggere Israele? Vanno insieme. Bisogna andare a scavare proprio sotto le ceneri per capire quello che la politica di Israele e la politica americana. Perché questo è il discorso che stanno facendo. Per me è il progetto generale che sta andando a rotoli e noi dobbiamo cercare di fermarlo. Per fortuna in Palestina siamo riusciti, non abbiamo visto né ISIS né altri, stiamo mantenendo ancora la nostra laicità, insomma. Siamo alla conclusione, a questo punto ti chiedo qual è la musica e qual è il film che rappresenta secondo te la lotta di liberazione della Palestina, e appunto, e poi anche quali tra queste due, secondo te, queste due cose secondo te rappresenta il contributo italiano più incisivo, ad esempio il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte dell'Italia o l'espulsione dell'ambasciatore israeliano a Roma? Vabbè, allora, per la musica io mi piace sempre quella canzone famosissima Una Dico, che è una bella canzone, e anche le parole sono molto toccanti, incoraggianti, insomma. Il film più bello sulla Palestina ho visto, che è un film del 68, praticamente 69, fatto da un regista italiano, si chiama Al-Fatah, perché quello rappresenta il cambiamento, cioè la trasformazione sociale che è riuscita Al-Fatah all'epoca a cambiare la società palestinese, da un popolo di profughi che aspetta le file all'ora davanti all'UNRWA per prendere il sacchetto di farina o di zucchero o di riso, a un popolo combattente. Come è stato capace a creare tutte le strutture e tutte le istituzioni palestinesi, in quel momento era la più grande rivoluzione veramente del popolo palestinese. Poi quello che è successo dopo è un altro, però quello è il film che bisogna che ogni palestinese deve guardarlo e vederlo più di una volta per capire qual è il lavoro che bisogna fare con le masse popolari per arrivare a creare delle strutture capaci. Noi abbiamo creato la Mezzaluna Rossa, l'Unione degli Studenti Palestinesi, delle donne, degli avvocati, di tutti gli strati sociali, abbiamo creato la loro organizzazione di massa, insomma, che potevano, e queste che hanno creato e riconosciuto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, come unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. Ora, tu mi dici il riconoscimento dello Stato palestinese o la cacciata dell'ambasciatore israeliano? Preferisco il riconoscimento, perché il Certo. risultato verrà dopo. Va bene, Bravo, bene, certo. grazie. Per finire ringraziamo Bassan Saleh per la costruttiva conversazione sui fatti di cui abbiamo parlato e speriamo veramente di averlo di nuovo ai nostri microfoni. Quindi ti salutiamo, Grazie. Bassan. Grazie a voi e quando volete noi siamo a disposizione. Benissimo, Grazie. grazie, Grazie a ciao. voi, ciao. Ciao. E con le parole di Bassan, che dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, l'intelligenza, la tenacia e la perseveranza del popolo palestinese, concludiamo questa puntata, facendovi ascoltare ancora un brano dal film Al-Fatah e parte della musica di Unabikum. Con questo vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 17:30. Inshallah. Come rinasce un popolo? Prima di tutto con un lungo lavoro di preparazione politica. Qui siamo nella regione di Irbed, a pochi chilometri dalla frontiera israeliana. La milizia popolare di Al-Fatah, una delle prime organizzazioni create dai palestinesi, lavora con la popolazione giordana. L'intera regione è sottoposta a frequenti bombardamenti israeliani. Molti suoi abitanti avrebbero voluto andare via, ma i miliziani insegnano loro a difendersi dalle bombe, a costruirsi rifugi, a provvedere alla propria sicurezza. È un momento importante nella formazione della coscienza di chi sovente ha conosciuto solo la paura per un nemico più potente e agguerrito. Uno dei momenti di mobilitazione civile, fondamento di ogni guerra che voglia essere di popolo. Le bombe ora continuano a cadere, ma la gente raggiunge ordinata i rifugi, diviene consapevole dei pregi dell'organizzazione collettiva, riduce il numero delle vittime. Non ha onore. Come hai saputo che lui è caduto? Sono venuti. Chi Sono venuti i Fidaim, i compagni. Ci hanno detto che Mohammed è stato colpito e di andare a vederlo. Allora ho avuto il presentimento che lui fosse caduto. Ho messo le dita alle orecchie e gridato di gioia. E perché di gioia? Perché è caduto da martire, amato dal suo Dio, meglio di chi muore da carogna. E tu sei la moglie del martire? Sì. Questo è tuo figlio? Sì, è mio figlio. Quanti anni ha? Ha 35 giorni. Quando tuo figlio sarà cresciuto, ti farà diventare un Fidei. Glielo impedirai? No, non glielo impedirò. Sarò contenta se mio figlio diventerà un Fidei e prenderà le armi al posto di suo padre. Ogni uomo, ogni popolo che ci vuol bene e che ci aiuti, speriamo che Dio lo aiuti e lo sostenga. Noi ora difendiamo il nostro paese per potersi tornare. Colui che non ha paese non ha dignità. In verità noi a Israele siamo tutti figli di Eva e di Adamo, ma che Dio sia lodato, c'è quel sionismo che divide la gente. Sempre con questi ebrei occidentali abbiamo vissuto insieme bene, ma poi sono venuti il sionismo e la Ganà a cacciarci dal nostro paese. Ha ucciso i nostri uomini, ha fatto sì che il mondo intero ci abbia detto andatevene a morire ammazzati, siate profughi. Eppure stavamo bene nella nostra terra. Adesso io chiedo che il grande, il piccolo, il vecchio, il giovane, tutti difendano il nostro paese per recuperarlo insieme alla nostra dignità. Adesso siamo tornati ad avere l'onore con la rivoluzione. Prima niente. Che Dio sostenga i Fidaim e gli dia la vittoria. Quando, tornata a casa, hai trovato le donne che piangevano perché era caduto tuo figlio, eri molto addolorata? No. Il proverbio dice che i giorni della vita sono contati ed uno deve lottare quando è inevitabile. Cosa hai detto alle donne? Il martire è l'amato di Dio, il martire per la patria. Speriamo che anche noi come lui diventiamo martiri. Perché piangere per lui? Se io piango per mio figlio e ogni donna piange per il suo, perdiamo il nostro paese. Solo i figli possono difenderci. Che Dio sostenga la rivoluzione e conceda la vittoria. Sì, Sandra. Sì. Cosa hai trovato quando hai saputo che tuo figlio era caduto? Ringraziamo il Dio. Lui è caduto martire per la sua terra. Non eri triste? No, non ero triste. التي أحيا نصيبي من مآسيكم.